quest'ora i miei segugi le due prede azzannano. Domani sul palco vedrà l'aurora Angelotti e il bel Mario e Nacho Pendere. Un ciambellanne uscì a pur ora in traccia. Attenderai la Tosca in sull'entrata, le dirai che io l'aspetto finita la cantata. O meglio, questo biglietto ella verrà. Per amor del suo Mario al piacer mio s'arrenderà. Profondi amori e la profonda miseria.